noi abbiamo scelto la zona dell'ingresso secondario, quello dove ci andiamo di solito, e come ha già detto Donia, così abbiamo praticamente anche noi scritto le stesse cose, ma abbiamo anche aggiunto di togliere i vetri che ci sono in quella zona lì. Sì, la vetrata. Sì, la vetrata, e sostituirla con dei lavori nostri sempre fatti in vetro, creando tipo dei mosaici. Delle vetrate artistiche. Inoltre avevamo proposto anche l'idea di togliere tutte le erbacce e riqualificare quindi tutti quanti gli spazi verdi e renderli di nuovo accessibili, anche per fare delle lezioni all'aperto, ma anche semplicemente come zona pranzo, visto che tanti alunni a volte restano qua a scuola in caso di pioggia perché vogliono ripassare, così rendere anche uno spazio all'aperto più piacevole. E anche dipingere di nuovo, decorare il cancello e tutta quanta la zona esterna, proprio per far vedere la vena artistica della scuola. E invece sotto la scala antincendio riqualificare anche quella zona lì, perché è piena di immondizia, e trovare anche un modo per utilizzare quelle sedie rotte, o anche in altri modi trovare un modo con i vari professori, parlarne e migliorare sempre la scuola.